24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero, del tacchino, quella di Bersani, sa? L'ha capita? Farò un master in bersanese. Eccoci qua, buongiorno cari ascoltatori, è sempre tempo di tacchini sui tetti e chissà se troveremo una soluzione per questo paese un po' così che sta cercando di trovare il modo per formare un nuovo governo. Benvenuti, siamo qui fino alle 9 come al solito. Saluto la nostra Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Siamo pronti ad aprire la serranda del nostro Parlamento. Eccoci qua, Parlamento. Il caffè volentieri è forza. C'è sempre la nostra bella Nicola. Strade in diretta. Che? Chi è strade in diretta? Ma che succede? Salta tutto. Guardo Peter Bescapè e dice: ma che succede? Che succede? Le strade in diretta nel Parlamento. Mannaggia. Li paghiamo noi e con quello che paghiamo voglio bere tanto da tornare storto come il dottor House. Pensavo che mi fossero entrati i pullman in Parlamento. Vabbè, allora voglio salutare il direttore di TGCom 24 Mario Giordano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Saluto anche Mario Adinolfi, buongiorno. Buongiorno. Oggi pimpantissimo, di solito a volte ti svegliamo. Sì, mi svegliate, oggi mi sono svegliato da solo. Non c'è la sveglia della nostra Miriam Lucchetti oggi. Esatto. Allora, vi devo far ascoltare queste note che tutti conosciamo. Dice, che è? Direttore, cos'è questo? Cos'è? È l'inno di Cipro! Tutti ciprioti siamo un po'. Tutti ciprioti! Bisogna un po' di solidarietà, perché lì. Del resto noi il prelievo forzoso abbiamo dato, siamo stati, come dire, antesignani. Sì, ci hanno tolto poco. Chi ha fatto il prelievo forzoso adesso vedo che è super candidato al Quirinale, quindi. Giuliano Amato, uno dei nomi che torna. Siamo tutti ciprioti, sentiamolo ancora un po' per solidarietà. Adinolfi, vuoi cantare questo? Tu hai cantato l'inno d'Italia. Io ho cantato quello lì vero. È quello, no, vero. In quello, l'inno d'Italia in Parlamento ha cantato Adinolfi. Oh ragazzi, qua tutti gli italiani si sono svegliati con questa domanda, parliamoci chiaro. Ma quello che sta per succedere a Cipro, anche se leggete oggi sulle 24 ore, stanno un po' rientrando, nel senso la prima stesura, quella di prelievi da fino al 9% sopra i 100.000 euro, poi anche sotto i 100.000 euro, sta rientrando, stanno un po' modificando. Però Mario Giordano, qui la domanda che si pongono gli italiani è: oh, ma non è che iniziano da Cipro e poi si avvicinano? Perché è un primo passo, Beh, sì, è la domanda insomma che ci stiamo facendo già da qualche anno. Sembrava ne fossimo venuti fuori, no? Perché le ultime dichiarazioni si era detto: è finita la crisi finanziaria, ci resta sul gobbone la crisi economica, che non è da poco, perché insomma la crisi drammatica, mentre invece in questi giorni, in queste ultime ore, si è riaperto lo spettro insieme alla crisi drammatica economica, cioè che ci sta facendo pagare caro il conto con tassi di disoccupazione vertiginosi eccetera eccetera, ciò che tutti sappiamo, si riapre anche di nuovo quello che pensavamo ne fossimo usciti, ecco. Quello che fa un po' specie è questo. Sì, no? Per carità, tutti ci tranquillizzano, la Merkel dice ma no, ma Cipro è un caso isolato, per carità, c'è un funzionario europeo, racconta oggi Libero, che quando è stata fatta questa proposta ha detto mi stavo per mettere a vomitare quando ho saputo che stavano per fare questo prelievo forzoso. Sta di fatto che Adinolfi qui chiuse le banche per 4 giorni, tutti a fare la fila agli sportelli bancomat per cercare inutilmente di recuperare un po' di soldi. Non sono belle scene nell'Unione Europea. La cosa interessante è che finalmente oggi è martedì e ci siamo resi conto che questa è la notizia bomba della settimana, perché da venerdì che c'è in realtà, oggi finalmente la leggo in apertura sul Corriere della Sera. È una cosa enorme, cioè il prelievo forzoso che abbiamo subito noi, lo ricordava bene il direttore Giordano, è niente rispetto al quasi 7% che viene prelevato su tutti i depositi, cioè una, 7% è un'enormità. Sì, sì. Cioè una, poi un furto. Un furto, ecco, chiamiamolo così, una, un furto. Una super tassona, cioè cos'è un furto? Ovviamente mina le certezze dell'Europa e dimostra ancora una volta come questa Europa non regga il passo del mondo intero, forse per ragioni che sono dovute anche a una incapacità di comprendere che il mondo è cambiato radicalmente. Sì, ma non ci dà anche una risposta molto più drammatica che quello che si diceva, non so, io la pongo a voi, ma che state a votare, ma che state a fare? Tanto decide tutto l'Europa, no? Quando si sente questo mantra, Mario Giordano che ama moltissimo l'Europa, ha scritto dei libri pontificando dicendo che l'Europa è talmente geniale, fantastica, che dovremmo portarcela anche nel condominio, direttore? Se decide tutto l'Europa siamo fregati, perché insomma il difetto che abbiamo raccontato e visto mille volte è che di fatto l'Europa non esiste, in realtà esistono alcuni interessi di alcuni stati forti e di una finanza forte che non tiene conto di un'Europa, cioè l'Europa in realtà noi non l'abbiamo mai costruita, c'è cioè l'Europa della curvatura delle banane, della circonferenza di Piselli, delle leggi inutili e delle norme finanziarie, ma in realtà non è mai stata costruita. Io ho incontrato un tassista che mi raccontava con nostalgia, succede anche questo nell'Italia di oggi, con nostalgia il primo gennaio del 2001 quando dovette lasciare le lire e prendere i primi euro e ricordare, dice, primo prelievo bancomat in cui mi uscirono gli euro e dissi mi stanno facendo giocare al Monopoli e lo raccontava con una cosa di grande nostalgia. Io credo che sia un pericolo anche questo, ma sì, insomma, sia dovuto a questa Europa folle che abbiamo costruito. Stiamo a vedere che succede. Certo, il timore un po' c'è. Mario Giordano prima ricordava il prelievo forzoso di Giuliano Amato, uno dei nomi che spunta. Qua noi invece ci arrabattiamo ad Inolfi, ci arrabattiamo a capire come trovi. Io non ne posso più, non sono manco iniziate le consultazioni. Sei di fiato corto allora. Ragazzi, già non ne puoi più, hanno cominciato il 15. Ma che paese barocco siamo! È da giorni che parliamo e mettiamo quello qui. Io già mi sono svegliato e ho detto: ho trovato! Berlusconi vuole una sua poltrona al Quirinale. Mettiamo D'Alema. Ed è fatta, è fatta, no, abbiamo risolto con un nome, facciamo finta che sia di quelli e invece è dei loro e via, è a posto, con D'Alema no, risolviamo tutto di Ronfio, no? Risolto facile, sì, sì. No, credo che ci sia il problema serio di coinvolgere tutte le forze politiche. Io sono stato critico, forse tra i pochi, per l'elezione di Boldrini e Grasso, due figure ovviamente di altissimo livello, ma che purtroppo mi sembra preludano a un'ipotesi da assopigliatutto, che il PD col 30% francamente non può permettersi, insomma. Adesso chiederanno l'incarico per Bersani, poi punteranno al Colle. Io non so se il sistema politico, che ormai è sfaldato e con tutta evidenza incapace di generare maggioranze, può reggere una sorta di monocolore su tutte le cariche istituzionali. Questo lo considero un problema molto grave, perché poi dopo, per carità, gli altri saranno impresentabili, gli altri saranno scemi, però non si può fare un'operazione politica in cui col 29, col 30% ti prendi tutte le ma gare, pare che anche Bersani lo sappia, in un retroscena oggi di Repubblica, in un retroscena di Repubblica, il problema esiste, non è un'invenzione di Berlusconi, questo avrebbe detto Bersani. Allora, direttore Giordano, c'è una questione di dire, dobbiamo dare anche una poltrona a Berlusconi, perché in fondo il paese è spaccato tra virgolette in tre e quindi non è che possiamo occupare tutto. Ma l'ho letto anch'io retroscena di De Marchis, che insomma se è vero, perché poi retroscena della politica verso le 11 del mattino, sì, quando si svegliano, esatto, gli uffici stampa vengono smentiti subito. Noi facciamo il gioco di quante ore passano fra retroscena e la smedia. Se viene confermato, dà un tono di un Bersani un po' diverso rispetto a quello di ieri. Ora, resta da capire quanto uno possa, cioè io ti tiro un pugno e poi dopo dico però dobbiamo andare d'accordo, e dice però ieri mi hai tirato un pugno, come facciamo ad andare d'accordo? Cioè, perché Bersani ha fatto evidentemente un atto, diciamo, di forza nell'elezione dei due presidenti, come diceva giustamente Mario Dinolfi, figure di altissimo livello, insospettabili, società civile, non è, quindi non si discute sulle persone ma sulla modalità in cui sono stati eletti. È chiaro che il PD ha fatto un atto di arroganza. Però sono sempre stati così, cioè le camere sono sempre andate, quella della camera al partito, diciamo, che ha appoggiato quello di maggioranza, e il Senato al partito che ha vinto le elezioni formalmente, no? Come è stato Fini alla Camera e Schifani al Senato. Cioè storicamente non è sempre stata così. Storicamente, cioè, nella Seconda Repubblica nella Prima Repubblica sappiamo che era diverso, però storicamente non si era mai avuto una situazione di stallo in cui non si sapeva neanche a chi affidare l'incarico di fare un governo. Per cui, come dicevi tu prima, siamo ancora qua oggi che ci interroghiamo non solo su chi fa il governo, ma se a Bersani può essere dato un mandato effettivo o solo un mandato esplorativo. È la domanda. Che gli italiani si svegliano e dicono: sarà un mandato esplorativo o un mandato completo? Appunto, cioè, tu fa conto quanto siamo lontani, quindi è molto difficile. Cioè, tu riesci a uscire da una situazione di questo genere solo se ti metti attorno a un tavolo e discuti, dici: la situazione è questa, ci stiamo tutti sonoramente sulle palle, però o ci mettiamo d'accordo e facciamo una cosa per dare un governo stabile a questo paese, o ritorniamo al voto domani per rivedere i rapporti. Infatti io me li vedo, ad Inolfi, me li vedo a colazione gli italiani davanti al caffè, stanno lì. Tu, moglie, cosa pensi? Sarà esplorativo? Mamma mia, ma gli italiani cosa vedono questo teatrino della politica? Per carità, sono tutte le cose istituzionali che bisogna fare. È inevitabile. Gli italiani devono imparare a gestire anche questo dramma. In effetti io su questo sono d'accordo, cioè abbiamo parlato di rinnovamento per un bel po', dopodiché prima seduta del Parlamento ci sono stati franchi tiratori, cioè sembra di essere Forlanian Fanfanian, cioè siamo un bacio all'indietro, i vertici segreti, i vertici a porte chiuse di quelli che predicano la trasparenza online hanno fatto vertice a porte chiuse. Ora è vero che, come dice qualcuno, bisogna alla politica comunque sporcarsi le mani, però un concentrato di riti così vecchi in un po' più in quello che doveva essere il momento della novità, è un balzo clamoroso. Comunque le consultazioni pare durino 2 giorni, almeno quello, insomma, in 48 ore dovremmo fare, anche se Napolitano ha detto non sarà facile come per il Vaticano, ha detto questa battuta. Io però ce l'ho un nome per il Quirinale, a parte D'Alema, che secondo me sarebbe una genialata veramente, cioè proprio dice mettiamo D'Alema così risolviamo, mettiamo uno dei Berlusconi, però il vero nome, un altro nome ce l'ho qui, ma ve lo dico tra un attimo dopo le informazioni sul traffico e la nostra segreteria telefonica. 24 mattino. Ho ascoltato l'intervista che ha fatto l'altro giorno alla Grillina e ho pensato una cosa ad Enzo Tortora quando commentava Orrore. Ti volevo ringraziare perché almeno te dai la parola al popolo, che spesso è ignorante così, però in confronto all'ipocrisia di quelli che governano è acqua di rose la volgarità del popolo, è acqua di rose, continua così. Grillini, vogliamo fare un governo? Grillini, se non facciamo un governo qua va tutta puttane, Grillini. La Boldrini mette i diritti prima dello sviluppo, ma senza sviluppo non ci sono i mezzi per pagare i diritti. Inoltre la Boldrini ha una figlia che studia a Londra. Rende bene versare lacrime per i poveri. È possibile procurare le medaglie d'oro al valor civile ai grillini che hanno votato per Grasso. Me ne vorrei anche assumerne il costo. Non dica che si alza presto per andare in radio. Mi sembra tanto la Falcetti ai tempi d'oro. Non si può sentir parlare della mancanza di governo in Italia come di una cosa buona. Vabbè, il Belgio, un pezzetto d'Olanda che parla francese. Abbiamo fatto da grande potenza per quasi 100 anni e ora dobbiamo comportarci come nel Burkina Faso. Dai, su, ci vuole un governo. Ci vuole un governo. La nostra segreteria telefonica, se volete, 0246524492, dite la vostra. Noi siamo con Mario Giordano, che è il direttore di TGCOM 24. E Mario Adinolfi, il mio nome era questo, il mio nome per il guinaggio, Giovanni Malagò. Chi è, ecco, il neopresidente del CONI, che ieri ha annullato i biglietti gratis per tutti i politici negli stadi. Oh, questo ha fatto come prima cosa, no? Posso dire che, per inciso, io la tessera CONI non l'ho mai avuta, non, ecco, la devo dare, la, ecco, subito diranno: ecco, i giornalisti gratis, eccetera. A parte che i giornalisti vanno a lavorare, poi non tutti i giornalisti, mica tutti. Giordano, le tribune stampa sono piene di colleghi. No, però la russa ha detto: sì, vabbè, non è che si sdemano i gondi così dello Stato, ma vuoi mettere la goduria, insomma, di togliere questo privilegio, no, direttore? Assolutamente sì, la tessera CONI gratuita è una cosa che stupisce che ci fosse ancora. Sì. Comunque, i politici niente, non vanno gratis allo Stato. Tra l'altro, oggi qua abbiamo un derby, se non sbaglio, no? Mario Adinolfi, Juventino, e Giordano e Granata, è vero? È così? Io assolutamente sì. E anche assolutamente sei sì. Sei punti facili ogni anno. No, aspetta, adesso arriva il derby, ma siamo quasi salvi, lo dico scaramanticamente, quindi il derby ce la giochiamo alla grande. È interessante, noi abbiamo già vinto lo scudetto. Ecco, fa lo sborone come al solito. Questi Juve, questi gobbi, appena rialzano un attimo la testa, stavano in Serie B 3 anni fa. E no, vabbè, è così. Allora arriva il badante dei grillini. Io non so, qualcuno ci aiuta a capire lo psicodramma dei grillini? Giordano, cosa è successo a questi? Sentite prima, sono pochi secondi, il senatore Buccarella del Movimento 5 Stelle, come si definisce? Siamo un bambino che è appena nato e magari può inciampare nei suoi primi passi. Eccolo qui, Giordano, sono dei bambini che gattonano. Anche no, cioè, non era in, cioè, che alla fine sarebbe successo, perché insomma, io dico che la Roma è riuscita a corrompere le truppe della Val Brembana che arrivavano giù con gli elmi del guerriero, quindi ad ammorbidire la Lega Ladrona, che poi è finita con i diamanti di Belsito, e quindi a Cipro. Hanno visto Belsito che cercava un bancomat a Cipro, pare così. E quindi insomma, che potesse resistere una banda di persone raccolte in modo abbastanza così, la vita in comune, queste descrizioni delle cose in periferia che arrivavano con le mappe, poi dopo alla fine quando arriva la cosa da Fortunato al Pantheon a mangiare la matriciana si corrompe tutto. Purtroppo il potere corruttivo di Roma è fortissimo. Quello che non pensavo è che fosse una roba così immediata, cioè al primo non hanno retto l'unità di intenti, almeno la loro proclamata unità di intenti, neanche il primo voto. Vabbè, ma non si sono rotti, non so, Adinolfi, no, capito, ma questo è uscito fuori a dire: noi voteremo il nostro candidato ha preso 6 voti, cioè, È vero, questo sì. Però Adinolfi, qua, che tu che conosci i grillini, tu che li ammiri anche, cioè li segui, no? Con attenzione. Beh, hanno fatto qualcosa di clamoroso, ovviamente poi elettoralmente si sono scontrati con la politica parlamentare, che è un'altra cosa. Io dico sempre che un partito rivoluzionario deve essere iperdisciplinato, loro si sono dimostrati poco disciplinati, è un incidente di percorso che ci sta, sarebbe molto più grave se votassero la fiducia, perché tradirebbero il mandato con cui sono andati in Parlamento, per cui credo che questo passaggio fosse molto problematico per loro per tanti aspetti, e hanno dimostrato anche inesperienza, perché peraltro i 10 o 12 voti a Grasso sono stati influenti sostanzialmente. Sì, è vero, cioè è vero, anche i voti per Grasso, se anche non avessero votato Grasso avrebbe vinto non Grasso lo stesso. Quindi il dato interessante è che hanno fatto esperienza di che cos'è il Palazzo Romano, che è una cosa seria, non è più chiacchierare sui blog, non è più... Allora questa va presa seriamente, vanno... Come dire, insomma, la travata in faccia. E infatti arrivano i due badanti, arrivano due blogger, Messore e Martinelli, che vanno a Roma a controllare due cosa fanno. Due emissari di Casaleggio. Due emissari di Casaleggio. Cioè, chissà se Casaleggio andrà, tra l'altro, alle consultazioni del Quirinale domani. Questa è la domanda con cui voglio lasciare, ma voi dovete dirmi in 10 secondi, Mario Giordano e Mario Adinolfi, secondo voi chi sarà il prossimo premier? Forza, sbilanciate. Mario Giordano, io ho detto Fabrizio Barca da un bel po'. Giordano, chi sarà il premier? Piero Grasso. Piero Grasso. Oh, Mario Adinolfi. Sarà Bersani con un un governo di minoranza con sarà un tacchino. Un errore. No, pensavo con il tacchino sul tetto sarai. Bersani per Adinolfi, va bene, staremo a vedere. Vi ringrazio Mario Giordano, direttore di TGCom 24, e Mario Adinolfi. Andiamo al giornale radio, ci ritroviamo dopo per la rassegna stampa. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qua, sono le 7:20 minuti, siamo pronti a leggere i giornali, vi ricordo anche gli ospiti, oggi torniamo a parlare di politica, lo facciamo con Giuseppe Civati del Partito Democratico, Mario Mantovani del Popolo della Libertà, poi avremo anche dopo un po' che sta in silenzio il ritorno a parlare di Antonio Ingroia, l'ex magistrato che non è entrato in Parlamento, ma insomma è interessante il suo punto di vista su tante tante cose, anche l'ultima, il procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti per aver leso la magistratura con alcune dichiarazioni. Questo dalle 8:15, ora tuffiamoci appunto nella lettura dei quotidiani in edicola. È martedì 19 marzo, intanto i titoli, c'è chi apre, a mio modo di vedere, giustamente con la situazione a Cipro, che ci può apparire lontana ma è molto vicina a noi, Cipro dell'Unione Europea. Dall'Europa via libera ai pagamenti della pubblica amministrazione, questa è l'apertura del Sole 24 Ore che mette Cipro in primo piano a fianco. Cipro, nuovo piano anti-default oggi all'esame del Parlamento. La situazione di Cipro anche per il manifesto, l'isola del tesoro, questo è il titolo di prima pagina. E Libero invece mette il rischio Cipro per l'Italia, un governo serio o ci svuotano i conti. Anche per il Corriere della Sera, Cipro teme assalti agli sportelli, l'Europa salvare i piccoli depositi. E poi c'è anche l'apertura però sulla politica italiana, Grillo rinuncia alle espulsioni, questo è il titolo più corposo di prima pagina del Corriere. Questo ci porta ai titoli dedicati proprio alla politica. Repubblica, Quirinale, la minaccia di Berlusconi se va alla sinistra, rivolta in piazza. Per la Stampa, Berlusconi PD scontro frontale. L'Unità, Quirinale, la minaccia del Cavaliere. Il Giornale, allarme di Berlusconi, qui c'è aria di golpe. Il Messaggero, battaglia in piazza per il Colle. Il Fatto Quotidiano, il Caimano all'assalto, il Quirinale o scateno la piazza. Mentre Avvenire apre comprensibilmente con l'insediamento oggi, la cerimonia ufficiale con cui Papa Francesco diventa sale al soglio pontificio, insomma, con la cerimonia ufficiale, il padre che ci è dato, questo è il titolo di Avvenire, con la foto ovviamente di Papa Francesco. Voglio partire, come vedete, sia Cipro e sia le dichiarazioni di Berlusconi sul Quirinale, come dire, si teme l'occupazione di tutte le poltrone che contano nel potere da parte del centrosinistra. Questo lo vedremo più avanti. Intanto voglio partire da che cosa? Beh, ha fatto scalpore e ha suscitato un dibattito, ci sono sempre dibattiti all'interno del Movimento 5 Stelle su questo, non c'è dubbio, la decisione di questa deputata Jessica Rostellato di non stringere la mano vantandosene a Rosi Bindi, emblema per lei evidentemente del potere, della casta che si perpetua nonostante tutto. E allora sono nate le polemiche, ha sbagliato, è stata maleducata, poi lei ha dovuto chiedere scusa, prima se n'è vantata, poi ha dovuto chiedere scusa al movimento. Deputata non stringe la mano a Rosi Bindi, così su La Stampa, intanto si è guadagnata un po' di titoli, non saluto la Bindi e il web dice cafona, questo è il titolo per esempio dell'Unità, pagina 4, non saluta la Bindi e poi è costretta a scusarsi, pagina 6 del Giornale. Vabbè, la politica e la novità si sconta anche così, con magari delle azioni che ti portano per un attimo in prima pagina magari poi non per motivi di grande merito. È la stessa Jessica Rostellato che, pizzicata dalle Iene di fronte alla domanda cos'è la BCE, non ricordo, ha risposto. Ed è la stessa che si guadagna il buongiorno di Massimo Gramellini, che oggi torna a leggere. La cittadina e la strega, scrive Gramellini. Gentile cittadina Jessica Rostellato, ho letto su Facebook il racconto in prima persona del suo atto di eroismo. Era una notte buia e tempestosa, lei stava lasciando l'antro di Montecitorio in compagnia di alcuni valorosi concittadini a 5 stelle, quando ecco profilarsi sull'uscio un'ombra terrificante. Rosy Bindi, la fattucchiera democratica, la strega casta, a sorriso falsamente benevola. Ma presentiamoci, così cominciamo a conoscerci. Poi vi ha teso una mano mentre con l'altra armeggiava nella borsa per estrarne il fluido che vi avrebbe trasformato in seguaci di Mastella. Qualche ingenuo concittadino ha ricambiato il saluto e su di lui si sono perse le tracce, pare lo abbiano visto in una stalla del PD inneggiare la santità di D'Alema, al raddoppio del numero dei parlamentari. Ma lei, Jessica, no, lei ha tirato dritto, se n'è andata, perché lo ha scritto orgogliosamente. Ti pare che io ti do la mano e ti dico pure piacere? No, guarda, forse non hai capito, non è un piacere. Così si fa. Meglio sembrare maleducati che essere falsi come loro, perché diciamola tutta, se un politico tende la mano a un cittadino è solo perché intende sfilargli l'orologio. Nessuna intelligenza con il nemico. Da sempre i cambi di regime non si realizzano col dialogo ma con la ghigliottina e nei casi meno violenti col disprezzo. Un dubbio però mi assale, cittadina. E se fosse proprio per questo che le rivoluzioni non hanno mai cambiato la natura del potere ma solo il volto del suo provvisorio detentore? Ecco, questo il buongiorno di Massimo Gramellini su questa vicenda, certamente anche di colore, no? avvenuta alla Camera. Mentre io, ironicamente, ma neanche tanto, ho proposto un nome per il Quirinale. Sono sicuro che molti italiani mi seguiranno su questo, sull'onda, insomma, della demagogia imperante, del qualunquismo, metteteci quello che volete. Giovanni Malagò. Propongo lui per il Quirinale. Voi direte, e chi è? E chi diavolo è? Chi non segue magari? Giovanni Malagò è il neo presidente del CONI, il Comitato Olimpico Italiano. Perché, direte voi? Perché in un attimo è stato colto da quello che la stampa dice, per esempio, un attacco di una deriva grillina. Ecco, adesso tutto riferito a Beppe Grillo, per carità. Ha deciso in un giorno di sospendere le tessere gratis per far entrare i politici agli stadi, negli stadi, per vedere le partite di calcio. E immaginate subito, dal CONI stop ai parlamentari, basta tessere gratis per lo stadio, così sulla stampa, pagina 6. Tutto si poteva immaginare, racconta Alberto Infelice, tranne la deriva grillina di Giovanni Malagò, neoeletto presidente del CONI, ha terremotato Roma con una mossa che fa sembrare Papa Francesco un grigio tradizionalista. Ha eliminato le tessere gratuite con le quali i parlamentari potevano, per tradizione antica, entrare allo stadio. Panico all'Olimpico, panico nella Roma generona, che vede in una buona postazione in tribuna Montemario un'affermazione del potere assoluto. Era un simbolo quella tribuna gremita anche per certi Lazio-Chievo di Coppa Italia, perché nella fenomenologia del potente, ma ancor più del peone, essere ammessi a quel mostruoso privilegio era una cosa da raccontare a parenti, amici per intere settimane. L'importante era essere lì gratis, per diritto divino. Niente fila, niente parcheggio, visto che più di uno arrivava in auto blu fin oltre i cancelli. Niente coatti da curva. Quello era il posto in cui forse più di ogni altro la Roma godona specchiava il suo potere, tra una ferillona abbonata ad hoc e qualche meno nobile bellezza pronta a scortare il potente fin quasi all'entrata degli spogliatoi. Eccolo qui, insomma, Malagò ha deciso basta. E ovunque sul Fatto Quotidiano, CONI a 5 stelle, c'è tutto il paragone col Movimento 5 Stelle. CONI a 5 stelle, basta tessere per i politici, Paolo Zigliani a pagina 19. Ma tutti i giornali fanno un commento su questa vicenda. E Ignazio La Russa, racconta Libero, ha detto: non credo che così si sdemeranno i bilanci dello stadio. Però, come ho scritto io su Twitter, vuoi mettere la goduria. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci, eccoci qui. Allora, alle 7:35 minuti, cari ascoltatori, dovrete ora in questi giorni fare i conti con quello che sta succedendo a Cipro. E non pensiate che sia una cosa lontana, che non ci riguarda. Lo vedremo e lo scopriremo subito dai giornali, perché ci riguarda da vicino, da vicinissimo. Primo perché Cipro è nell'Unione Europea e quindi voglio dire, se siamo nell'Unione Europea lo siamo tutti, no? Cosa sta succedendo a Cipro da qualche giorno? Sta succedendo questo, che Cipro ha bisogno di aiuti e i prestiti internazionali sono pronti ad arrivare, solo che i prestiti arrivano in cambio di che cosa? Dice: noi vi diamo 10 miliardi di prestiti, cari ciprioti, in modo che vi aiutiamo, visto che la situazione finanziaria è difficile. Voi però dovete contribuire. E come ha pensato di contribuire il governo di Cipro? L'Unione Europea ha avallato questa idea facendo un prelievo forzoso sui conti correnti di tutti i ciprioti, ovviamente con aliquote diverse in base a quanto uno ha in banca. Questo, se è stato detto, è stato fatto anche perché a Cipro c'è una fortissima comunità di russi, molti magnati, alcuni anche controversi, quindi era un modo, facendo il prelievo forzoso sui conti correnti, per andare anche a recuperare soldi da chi magari li ha fatti in modo un po' poco pulito. Il problema è che questo prelievo forzoso riguarda anche, almeno nella prima formula, i conti correnti sotto i 100.000 euro, quindi tutti i conti correnti, e quindi molta gente si è affrettata ai bancomat per cercare di prelevare. Il governo ha chiuso le banche per cercare di evitare questo. Insomma, un casino colossale, e il timore che questo possa contagiare l'Europa. Già le borse ovviamente hanno scontato parecchio questa situazione. In ogni caso, dovete leggere Il Sole 24 Ore a pagina 6, Beda Romano, il piano salva Cipro. Intanto perché l'Unione Europea corregge il tiro, questo è il titolo, e cioè l'establishment europeo, scrive Romano, è alla disperata ricerca di un modo per evitare che la crisi finanziaria ciprota gli scappi definitivamente di mano. Il pacchetto d'aiuti messo a punto dall'Eurogruppo nella notte tra venerdì e sabato, ormai lettera morta, si discutono nuove formule. La prima formula era questa, appunto: un prelievo forzoso del 6,75% per i depositi fino a 100.000 euro, cioè avete capito, 6,75% per depositi bancari fino a 100.000 euro. Uno ha 10.000 euro in banca, gli prendono il 6,75%, così. 9,9% per i depositi oltre i 100.000 euro di prelievo forzoso. L'obiettivo qual era? Era di raccogliere 5,8 miliardi di euro dai conti correnti dei cittadini ciprioti e quindi limitare così l'ammontare dei prestiti internazionali, far contribuire anche Cipro a questo. Vi diamo dei soldi, ma voi contribuite. E come si fa? Come in tutti i paesi, si prende al popolo. E questa formula però ha già subito uno stop, una retromarcia. Ora racconta Beda Romano, oggi si voterà in Parlamento a Cipro. Si parla di nuove possibilità, tre aliquote, 3% per i conti sotto i 100.000 euro. Comunque è sempre una bella cifra, 3%. 10% per chi ha tra i 100 e i 500.000 euro e 15% quando il conto ha più di 500.000 euro. La prima aliquota non sembrerebbe più d'attualità, tenendo conto però del comunicato dell'Eurogruppo, cioè forse si arriva a preservare almeno chi ha i conti correnti sotto i 100.000 euro. Comunque, questa è la situazione, e non pensiate che la situazione sia molto lontana se leggete Federico Fubini a pagina 3 del Corriere della Sera, quando racconta quel piano per Nicosia, cioè la capitale di Cipro, che approderà in Senato con la nuova linea dura. E cioè di cosa si tratta? Beh, leggetela, la cifra è messa nero su bianco alla riga numero 5 dell'articolo. L'Italia è chiamata a contribuire con 750 milioni a questo risanamento di Cipro. Un prestito che peraltro aumenterà il debito pubblico, e allora, anche senza governo, il Senato di Roma dovrà votare probabilmente su Cipro. Dovranno dire di sì o di no gli eletti del Movimento 5 Stelle, quelli di SEL, quelli del PD vicini alla CGIL, chissà quale maggioranza semmai si troverà. Perché qualunque siano le modifiche dei prossimi giorni, il piano per Nicosia presto arriverà anche a Palazzo Madama, per il semplice fatto che l'Italia è chiamata a contribuire con 750 milioni. Corriere della Sera. Allora, pensate ancora che Cipro sia così lontana? Ovviamente tutti i giornali vi segnalano un bel reportage di Nefeli Misuraca sul manifesto La Svizzera del Medio Oriente, lo trovate a pagina 3, un bel racconto delle divisioni anche di Cipro, isola dal 1974 divisa in due con tre quarti della popolazione rimasta al sud, allontanata dalle proprie case dai caschi blu e mai rientrata. Vi segnalo anche Roberto Giovannini, inviato a Cipro per La Stampa, pagina 3, a Nicosia l'incubo Atene, giù le mani dai soldi, secondo alcune stime nella corsa al bancomat che c'è stata tra mercoledì e venerdì prima di arrivare alla chiusura delle banche per evitare che la gente andasse a prelevare tutto, sono stati già presi dai ciprioti 4,5 miliardi di euro dai conti bancari. In queste ore infuria anche la polemica, i giornali e la rete lanciano accuse verso i personaggi vicini alla Presidenza della Repubblica e al governo, avrebbero saputo prima del provvedimento mettendo in salvo i loro patrimoni. Ecco subito che si sparge il veleno, racconta La Stampa, no? La solita questione che ora acuisce anche gli animi, cioè a dire c'è chi sapeva prima e ha messo al sicuro i propri patrimoni e alla fine... chi ci rimette sempre il popolo. Su Libero raccontano di un funzionario europeo a pagina 4 che per la verità viene non citato, rimane nell'anonimato, ma che quando tra venerdì e sabato l'Unione Europea ha dato l'avallo a questa decisione di Cipro del prelievo forzoso avrebbe detto: quando ho capito questo stavo per vomitare dallo schifo. Funzionario europeo, pensate ai ciprioti e invece come saranno contenti se questo funzionario europeo stava per vomitare dallo schifo di questa decisione. C'è anche un articolo di colore, se vogliamo così, ma mica tanto, sul Secolo XIX, lo trovate in prima pagina. Vi ricordate quando scoppiò lo scandalo dell'ex tesoriere della Lega Belsito e i soldi investiti dalla Lega di allora in Tanzania e a Cipro? A Cipro! E racconta allora Francesco Bonazzi in prima pagina: Belsito ringrazia lo scandalo, salvo il tesoro di Larnaca, Larnaca Cipro. E racconta Bonazzi: dovrebbe ringraziare il secolo XIX la Lega, perché per i leghisti è come se fosse crollata la borsa di Dodoma in Tanzania, un brivido di terrore lungo la schiena, la consapevolezza di averla scampata brutta. Pensate sentirsi dire: avevamo soldi a Cipro. Poi gli scandali, per fortuna. Lo scorso inverno si scoprì che la Lega Nord, non fidandosi delle banche italiane, aveva investito 4 milioni e mezzo in un fondo in Tanzania e 1 milione e 200 mila euro in un fondo cipriota, 1 milione in corone norvegesi. Poi lo scandalo, soldi recuperati, altrimenti, racconta Francesco Bonazzi, rischiavamo di vedere un improbabile tesoriere leghista in missione segreta a Larnaca di fronte a uno sportello bancario chiuso che tenta di recuperare i denari del movimento padano. Vabbè, questa almeno è scongiurata. Da Cipro all'Italia. Domani partono le consultazioni. C'è un Berlusconi che ieri ha parlato ai suoi, un incontro riservato, come al solito tutto viene spiattellato sui giornali, tutto chissà verrà in parte confermato o smentito. Sta di fatto che Berlusconi, le cose più importanti che ha detto, racconta il Sole 24 Ore a pagina 13, è questo: se il PD prende anche il Quirinale ci sarà battaglia in piazza. Berlusconi vuole un moderato, non è una proposta indecente, tutto ma non un uomo di sinistra, il Quirinale. Sembra questo il motto di Silvio Berlusconi, sempre più preoccupato per i nomi che circolano sul dopo Napolitano, dopo la scelta di Piero Grasso e Laura Boldrini a Senato e Camera. Un Berlusconi che, racconta il giornale, è andato anche molto duro nei confronti dei magistrati: sono un'associazione a delinquere, mi vogliono in carcere, mi vogliono arrestare, c'è una magistratocrazia. A volte, anche se sei innocente, ormai ti passa la serenità personale. Lavorano per una damnatio memoriae, ma non ci riusciranno, racconta Francesco Kramer sul giornale. Questo ha detto ai suoi: dalle toghe c'è un'operazione per farmi fare la fine di Craxi, ma io li aspetto qui. E poi sulla questione politica ha detto: credo che Bersani otterrà l'incarico grazie ai grillini e ai montiani. Insomma, comunque un Berlusconi molto agguerrito, questo dice ai propri parlamentari. Il cavaliere, la sfida per il Quirinale spetta a noi, altrimenti sarà battaglia. Questo è anche il titolo del Corriere della Sera. A pagina 5 c'è da dire che in un retroscena la firma Goffredo De Marchis in prima pagina di Repubblica, in maniera sotto traccia, lo stesso Bersani, racconta Repubblica, ammette che il problema c'è. Sentite la frase che viene attribuita al segretario del Partito Democratico riguardo alle frasi di Berlusconi, che dice: non possono occupare tutto. Il problema esiste, non è un'invenzione di Berlusconi. Così Bersani, al netto dei toni e delle minacce del Cavaliere, sa che il PD non può permettersi un'occupazione militare delle cariche istituzionali, tanto più dopo una mezza vittoria, e che sul nome nuovo del Presidente della Repubblica occorre cercare una soluzione anche con il PDL. Non su un nome loro, ovviamente, ma si deve provare a condividere una proposta. Dunque questo, secondo Goffredo De Marchis, nel retroscena che trovate in prima pagina, poi continua a pagina 3 di Repubblica, è la posizione di Bersani, cioè dire effettivamente non hanno tutti i torti, non possiamo occupare tutto. E il nome quale sarebbe? Subito riesce: i soliti, cari ascoltatori, Giuliano Amato, ma anche Piero Grasso, oppure Gustavo Zagrebelsky, Stefano Rodotà, Giuseppe De Rita, Romano Prodi, Massimo D'Alema. Sempre quelli lì, i nomi sono sempre quelli. Allora, intanto Bersani, racconta il Corriere della Sera, racconta i vari quotidiani, ha già in programma l'agenda per l'eventuale governo. Domani saranno le consultazioni, poi vedremo come va a finire, ma in caso ci fosse il governo, che cosa pensa Bersani? La prima legge, racconta Monica Guerzoni a pagina 8 del Corriere della Sera, la prima legge del suo eventuale governo riguarderà il tema che tanti ritengono il peccato originale del centrosinistra, vale a dire il conflitto di interessi per le cariche di governo e non solo. Ma è tutto un cercare di stare a capire i movimenti. Ripeto, da domani partono le consultazioni, forse tra giovedì e venerdì un incarico. Sarà un incarico pieno? Sarà un incarico esplorativo? So che vi svegliate con questa domanda a colazione, vi guardate nelle palle degli occhi e rimanete così, silenti, per almeno 10 secondi tutti i giorni, cari italiani. Lo scopriremo in settimana, con calma sempre. Intanto, che cosa si muove nel Movimento 5 Stelle? Beh, Grillo, raccontano tutti i giornali, frena sulle espulsioni. Le espulsioni che sembravano ventilate o sembravano minacciate per coloro che hanno votato Piero Grasso. Tra l'altro, oggi c'è un altro senatore che ieri è emerso e che oggi fa un paio di interviste, il senatore Mastrangeli. Lo trovate un'intervista per esempio sul Messaggero a pagina 6, intervistato da Claudio Marincola. Sì, io ho votato Grasso, senatore Marino Mastrangeli. Non ho aspettato certo quelli che lei chiama il perdono di Grillo per dirlo. L'ho detto subito appena uscito da Palazzo Madama, sono stato chiaro com'è nel mio stile. Forse mi dovevo vergognare? Avevo rubato qualcosa a qualcuno? Lei pensi che ieri sera sono stato qui dalle parti mie, a Pico e a Rocca Seca, e i cittadini mi hanno accolto con un abbraccio, qui in Ciociaria, dove prima si votava Fiorito, e i 5 Stelle ora hanno preso il 23%. Un suo collega di una TV locale mi ha chiamato questa mattina per dirmi: «A senato, complimenti, c'hai le palle». Ecco, questo è il senatore Marino Mastrangeli, che dice: «Dimettermi non ci ho mai pensato, la mia gente mi ha baciato e abbracciato». Cominciano anche ad assaporare, magari penserà Casaleggio, il gusto della notorietà. Comunque, il senatore Mastrangeli dice: io ho votato Grasso, e lo dice in questa intervista, intervistato anche dal Quotidiano Nazionale, già definito il senatore ribelle, torna in riga: Beppe è un padre, credo in lui. È sempre lo stesso Mastrangeli, forse l'intervista al Messaggero è arrivata prima di un paio di telefonate. Marino Mastrangeli, senatore a 5 Stelle del Lazio, ha disubbidito la linea. Non sono preoccupato, io e gli altri consideriamo Beppe come un padre. Se mio padre mi fa un cazziatone, io mica mi preoccupo. Beh, un padre padrone, gli chiede Veronica Passeri sul Quotidiano Nazionale. Ah, guardi, noi senatori abbiamo tutti più di 40 anni, non siamo ragazzi, e un figlio con più di 40 anni. Lui comunque fa bene, Beppe Grillo è il nostro garante assoluto, il garante del marchio del movimento. Poi c'è da dire che siamo 54 intelligenze, l'intelligenza collettiva è sempre superiore alla singola. Comunque ribadisce anche al quotidiano nazionale, mi hanno detto in tanti, hai le palle aver votato così. Sta di fatto che però Beppe Grillo non va alle espulsioni ma va ai rimedi, e cioè manda due blogger suoi fidatissimi, uno è Claudio Messora, uno Daniele Martinelli, a fare un po' i vigilantes, i badanti se volete, degli eletti del Movimento 5 Stelle, che chiaramente si devono un po' orientare ancora tra l'inesperienza anche del gestire i rapporti con i mezzi di informazione. Allora Tommaso Ciriaco su Repubblica, pagina 7, intervista Daniele Martinelli, mandato appunto lì da blogger a commissario, vigilerò sui deputati ingenui. Amico di Casaleggio, sono qui per evitare che si sputtanino. Eccolo qui. Viene mandato, i 6-8 che hanno votato per Grasso l'hanno fatto in libertà, ora questi nomi usciranno, si vedrà se si dimetteranno, come si risolverà la cosa. La libertà comunque è stata innanzitutto quella di scegliere e votare 160 parlamentari del Movimento 5 Stelle. Daniele Martinelli viene intervistato, sarò un catalizzatore, non so se sarò in grado di esserlo, per me è un'esperienza nuova, in passato ho diretto un TG Lombardo, Studio 1, avevo con me 5 persone, qui saranno 100, faccio la rassegna stampa da anni, sono stato inviato unico del blog di Ben, ma questo per me è un nuovo incarico, giuro che ancora non so cosa farò. Ho condiviso la battaglia di Beppe Grillo, sono iscritto al movimento, l'ho votato e sono qui a Roma. Nei prossimi giorni cercherò di capire come gestire la comunicazione. Insomma, arriva il badante. Oggi Gene Gnocchi, anche lui sul rompipallone sulla Gazzetta dello Sport in prima pagina, prende questo tema, no? Maratona di Roma, ordine d'arrivo: primo, un grillino che ha votato Grasso; secondo, Grillo che cercava di prenderlo per picchiarlo. Questo Gene Gnocchi. E poi che dire, c'è ancora tanto sui giornali, ma c'è tempo solo per raccontarvi purtroppo una cosa, vale a dire le polemiche, gli strascichi sulla vicenda Lucia Annunziata, dopo aver dato degli impresentabili ad Alfano e a tutti quelli del Popolo della Libertà. Richiamo della RAI. Il PDL dice non basta, racconta Paolo Conti sul Corriere della Sera, pagina 13, è stata richiamata una sorta di cartellino giallo per la lite in diretta con Alfano. Addirittura il giornale con Alessandro Gnocchi racconta la storia di Lucia Annunziata, definita lei impresentabile quando lanciava San Pietrini in piazza, racconta pagina 13 il giornale, spulciando in un brano anticipato stampa il mio San Pietrino contro l'AMA, quando manifestazione del 1977, Lucia Annunziata in piazza, inviata nel manifesto, lanciò un San Pietrino contro Luciano Lama, segretario della CGIL, cacciato allora dalla piazza. Eccola qui il giornale: l'impresentabile Annunziata lanciava San Pietrini in piazza. Non finisce la disfida. Ventiquattro mattino, la politica nel tunnel. Eccoci qua, 8 e 17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, la politica nel tunnel, ma ci siamo forse, con calma, ma ci siamo, cari italiani. Domani iniziano le consultazioni, allora io propongo, come per il Parlamento, mettiamo il Quirinale blindato lì, Comignolo, Camino, fumata bianca, fumata nera, finché non avremo un governo. In realtà Napolitano lo ha già detto come una battuta: non pensiate, cari italiani, che sia facile come in Vaticano, dove in 48 ore hanno fatto un papa. Sì, ma come si riuscirà a trovare una soluzione? Allora pare che si profili questa idea da parte di Bersani di creare una sorta di governo pop, no? Una squadra di governo nel caso ci fosse l'incarico a lui, e quindi via i D'Alema, i Rosibindi, i Veltroni, eccetera. Ma avanti magari nomi nuovi, quelli per blandire il Movimento 5 Stelle, non so, Carlin Petrini, Milena Gabanelli, Michela Marzano, Irene Tinagli, economista montiana. Ecco, basterà questo per cercare di trovare una soluzione, convincere qualcuno che quella è la strada giusta? chi lo sa, ne parliamo insieme ad altri argomenti come Berlusconi che dice il Quirinale non al centro-sinistra, se no è un'occupazione e faremo battaglia. Mario Mantovani, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Senatore del Popolo della Libertà, c'è da dire, poi magari ne parleremo anche altro, perché vicepresidente della Lombardia e consigliere regionale di Lombardia, qualcosa non quadra, ma la risolverà presto, immagino. Saluto anche l'onorevole Giuseppe Civati del Partito Democratico. Buongiorno Civati. Buongiorno a voi. Civati che, diciamolo chiaramente, lei è uno di quelli che ha detto in maniera molto chiara Bersani probabilmente non ce la farà, ma lei è uscito un po' allo scoperto, come dire, forse è il caso di pensare già a un altro nome. È così, Civati? No, io ho detto che se Bersani non dovesse farcela si potrebbe comunque immaginare un percorso diverso prima di arrivare al voto, un percorso che tenga conto di quello che lei diceva rispetto al governo pop, però si sia pop fin dal Presidente del Consiglio. E per esempio, lo so, per carità, aspetta il Presidente della Repubblica, i nomi eccetera, però usciamo un po' dal almeno noi dalle polverose burocrazie. Lei, Civati, a cosa penserebbe? A chi penserebbe? Non ne faccio ancora, perché confido che comunque l'intentativo di Bersani possa andare a buon fine. Quello che le posso dire è che deve essere un nome che in Parlamento riscuote successo. In questo momento mi pare che la maggioranza non ci sia ancora, ad esempio, sul nome del nostro segretario. Però un modo già da dire, cioè partiamo già dal Presidente del Consiglio a fare un nome, come dire, per lei Bersani è screditato a livello di numeri, a livello di possibilità di appeal, per esempio, per il Movimento 5 Stelle? Beh, io sono un po' preoccupato che non riesca, non è slealtà, è solo preoccupazione. Sì, in questi giorni mi pare che rispetto al Movimento 5 Stelle l'unica mossa che abbia funzionato sia stata quella di cambiare candidato, diciamo, se posso dirla con una battuta. Di cambiare candidato in che senso? Cambiare candidato premier? O cambiare candidati per... No, cambiare candidato al Senato. Al Senato e alla Camera. Certo. L'unica, quindi dice, se tanto mi dà tanto, l'unica mossa che può aiutare a prendere, a pescare un po', usiamo così politicamente, nel Movimento 5 Stelle è anche cambiare candidato andare dalla politica. Gliela dico così, secondo me l'unico modo è quello di discutere con loro, oltre che con gli altri, ma loro sono evidentemente la forza politica decisiva dal punto di vista dei numeri, per come si sono messe le cose, discutere con loro della possibilità di trovare un nome che piaccia anche a loro, perché in questo momento, insomma, la discussione è un po' arenata in un confronto, in uno stallo alla messicana, forse possiamo chiamarlo all'italiana, perché ormai... No, sì. Il Messico siamo noi. Insomma, interessante. Vabbè, non so, Mario Mantovani, lei un po' dall'esterno, ovviamente, che ne pensa della posizione di Civati che dice potremmo andare nel Movimento 5 Stelle, ci sono tre pontieri del Partito Democratico, e vedere con loro se c'è un nome che gli aggrada e proporlo alle consultazioni, visto che Bersani difficilmente ce la farà. Voi come osservate dall'esterno questa situazione? Ma noi osserviamo rispetto al fatto che la certezza ormai è che siamo davvero nel tunnel, come dice la sua puntata, nel senso la politica è nel tunnel, perché purtroppo questa occupazione che è stata fatta da parte della sinistra delle cariche, tutte le cariche dello Stato, le cariche istituzionali, insomma, si sono presi la presidenza della Camera, la presidenza del Senato, oggi pensano al governo, fra un mese penseranno anche al Quirinale, rispetto a forze in campo che rappresenta un terzo di quella che è la scelta che hanno fatto gli italiani. Però oggi Camera e Senato, Mantovani è sempre stato così, cioè nella Seconda Repubblica andavano al partito che ha vinto, diciamo, il Senato e al partito di maggioranza che ha appoggiato la Camera, in genere storicamente, ecco, è stato però così. Lei sa che alla Camera abbiamo l'espressione del 3,7% degli italiani, insomma, sì, questo è un vero partito che ha preso il 3,7% degli italiani, che è il partito di Nichi Vendola. Io mi chiedo se è una scelta, oserei dire non di carattere democratico perché la legge è questa, ma se è una scelta di carattere politico che possa dare speranza agli italiani circa un governo. Però l'idea che possa esserci un governo... Mi sembrano davvero delle occupazioni, delle istituzioni che nulla hanno a che vedere con quella che è stata la scelta degli italiani. Occupazione. È il segnale. Ma è vero che Berlusconi l'ha detta questa cosa? Cioè se c'è l'occupazione, se prendono anche il Quirinale facciamo battaglia in piazza? Allora, noi rappresentiamo un terzo degli italiani. Il Movimento 5 Stelle l'altro terzo, e l'altro terzo ancora lo rappresenta la sinistra in questo momento. Al di là della legge cosiddetta Porcellum che nessuno avrebbe mai voluto applicare, ma che naturalmente questo è il frutto. E se io ricordo quando Bersani diceva: se dovessi avere anche il 51% mi comporterei come se avessi il 49%. Certo, l'ha detto. Ecco, mi dica se questa è la conseguenza logica di una scelta. Però l'ho fatto un'altra domanda, cioè l'ho chiesto perché oggi lo leggiamo sui giornali, c'è un Berlusconi così combattivo che ha detto il Quirinale no. Certo che è combattivo. Berlusconi rappresenta un terzo degli italiani, si vede estromesso comunque da ogni scelta, perché è pur vero che dobbiamo fare opposizione, però francamente questa occupazione delle tre più alte cariche dello Stato rappresenta per noi uno schiaffo alla democrazia. Qui Civati, la questione si intreccia, cioè abbiamo già messo un altro tema molto caldo sul piatto, perché lei già sta lì a pensare il governo, chi lo facciamo, forse proporre un altro nome. Dall'altra parte avete un agguerrito Silvio Berlusconi che dice: state occupando un po' tutto. C'è sempre, i toni di Berlusconi sono sempre sbilanciati, sono sempre molto al di sopra di quello che in realtà succede. Anche dire che Boldrini rappresenta il 3% della popolazione italiana, intanto rappresenta una maggioranza del Parlamento che è stata definita da un sistema elettorale che ha voluto la destra. Certo, quando si vince fa comodo, quando si perde lo si rimprovera agli avversari. Io penso per esempio che un governo serva proprio a cambiare quella legge elettorale, ad esempio, per cui non lo so, mi sembra che dobbiamo uscire da questo clima e provare, come abbiamo fatto con Camera e Senato, a proporre nomi e figure indiscutibili, anche per il Quirinale. Se il PDL ha un nome in mente lo faccia, sicuramente non può essere quello di Silvio Berlusconi, né come alleato di governo né come Presidente della Repubblica. Silvio Berlusconi non le starebbe bene, Civati, assolutamente no. No, direi proprio di no. Ma lei di quelli che se arrivasse la richiesta d'arresto la voterebbe? Se arrivasse la richiesta d'arresto la valuterei con grande preoccupazione e serietà. Mi pare che molti stiano già facendo di queste questioni così delicate un elemento di tifoseria, non voglio aggiungermi al novero. Mantovani, voi ce l'avete un nome per il Quirinale? So che forse è un po' presto. Sì, credo che sia proprio prematuro, insomma. Si voterà dal 15 aprile in poi, sicuramente faremo la nostra proposta. Del resto abbiamo fatto la nostra proposta anche al Senato, mi pare di alto valore istituzionale, visto che ha svolto per 5 anni con grande rispetto delle istituzioni e rappresentando al meglio l'istituzione Senato, e non è stata neppure presa in considerazione. Quindi questo è un segnale che francamente non incoraggia. Perciò ritenere che Berlusconi possa fare un nome, se questa è la strada, non ci sono nomi da fare. E invece sulla questione di governo, Mantovani, sempre i giornali raccontano che Berlusconi avrebbe detto: in realtà, secondo me, un accordo con Montiano e Grillini Bersani lo trova. Secondo lei ce la fa Bersani oppure no? E se non ce la dovesse fare, che dovrebbe succedere? Guardi, secondo me Bersani non ce la può fare perché non propone, non fa proposte risolutive per i problemi del paese oggi. Quando lei legge negli 8 punti che si parla della cittadinanza facile per i bambini che nascono in Italia, piuttosto che il conflitto di interessi, adesso lei mi dica se le priorità in Italia oggi, di fronte a un paese che langue sul piano dell'economia generale, se queste sono le proposte serie. Forse la prima no, la seconda, il conflitto di interessi, non crede che sia visto. Ma intanto anche è una Silvio legge Berlusconi già applicata, una legge del 2004, quindi, ma le sembra urgente? Cioè le sembra urgente di fronte a... Ma come dicono che la sinistra in realtà non ha mai, è rimasta impiccata proprio quando è andata al governo, proprio perché non è stata in grado di fare una riforma sul conflitto di interessi, adesso lei mi dice che non è urgente. Ma io io dico che francamente di fronte alle aziende che chiudono, alla disoccupazione che cresce, al debito pubblico che aumenta, al fatto che abbiamo i giovani che non trovano lavoro, mi dica lei se il problema degli italiani è il conflitto di questo interesse. No, però tra gli otto punti ci sono anche le questioni economiche sono, della ripresa. Carità, ci sono dei proclami fuori dall'austerità. Che cosa significa? Quindi non ce la farà secondo lei perché è un programma vago. Non un programma, ce la farà perché non è un programma attuale per il paese. Sì, ma qua il paese è in pericolo. Prima del programma c'è proprio da trovare i numeri per la fiducia al di là del programma. C'è proprio la questione di, come dico spesso, di accendere la macchina, di girare la chiave dell'accensione. Ma anche Pippo Civati è uno di quelli del Partito Democratico che dice non ce la sente. Noi ci siamo resi disponibili a dare una mano. Oh, lancia però, ancora il governissimo. Però siccome no, al di là del tema governissimo, diciamo governo provvisorio, governo temporaneo, d'urgenza, governo d'emergenza, perché questo è quello di cui ha bisogno oggi il paese, e noi siamo qui a dibattere, a discutere su eventualità, su proposte, su iniziative. Sentiamo un po', visto che Civati darebbe anche un nome diverso. Civati, un'idea, visto che si profila ancora di governo di larghe intese, chiamatelo come volete, un qualcosa per inglobare anche il Popolo della Libertà e per fare quelle 3-4 riforme, tra cui la riforma elettorale, e poi andare a rivotare. Si può fare, Civati? Secondo me no, nel senso che ci abbiamo già provato per un anno e mezzo a fare un governo di larghe intese che dovesse fare la legge elettorale. I risultati li abbiamo visti, purtroppo. La legge elettorale non è stata rifatta, poi qualcuno ha deciso di fare cadere il governo proprio sul punto in cui forse si poteva arrivare ad una soluzione da quel punto di vista. Insomma, non lo so. Ho l'impressione che la forma del governissimo sia proprio quella meno incisiva e meno efficace. Però secondo me lei Civati il nome un po' ce l'ha in mente, il nome che potrebbe stuzzicare anche il Movimento 5 Stelle. Chi è? Rodotà, magari. Rodotà. No, ce ne ho degli altri. Non ce la farà, non ce la farà. Vorrei capire anche il Movimento 5 Stelle se ha dei nomi da fare, perché addirittura per dire che non va bene niente. Perché no? Cioè perché un bel premier a 5 Stelle, no. Lei potrebbe essere. No, mi faccia dire, a molti del Movimento 5 Stelle, come lei opportunamente notava, piacciono Stefano Rodotà, Emma Bonino, ci sono tanti nomi che sono stati fatti in questi giorni, ci possono probabilmente indicare qualcuno, insomma, che non sia del 5 Stelle, magari che sia un nome come quelli che abbiamo... Diciamo trasversale, un nome trasversale, diciamo, esatto, che possa aggredire, essere aggredito al centro-sinistra. Vabbè, la mia missione è cercare di strappare il nome a Pippo Civati. Intanto andiamo in pubblicità, c'è la pubblicità al meteo, siamo con l'onorevole Giuseppe Civati del Partito Democratico, il senatore Mario Mantovani del Popolo della Libertà. Senatore, quando rientriamo dalla pubblicità devo chiarire questa cosa, perché senatore, consigliere regionale, vicepresidente della Regione Lombardia, c'è qualcosa che insomma un pochino, no? O lei è ubiquo o c'è qualcosa che dovrà risolvere a breve. 24 mattino. Eccoci allora, ci sarà un modo per trovare una formula, per trovare un nuovo governo. Siamo con l'onorevole Giuseppe Civati del Partito Democratico, il senatore del Popolo della Libertà Mario Mantovani. Tra poco ci raggiungerà anche Antonio Ingroia, dopo tanto tempo torna a parlare anche a Radio 24. Senatore Mantovani, mi scusi, io ho fatto un attimo i calcoli, allora, senatore della Repubblica Italiana, sì, vicepresidente della Regione Lombardia. Non ancora, in pectore. Consigliere regionale della Regione Lombardia, già questo è incompatibile. Ma è anche sindaco ancora di Arconate? Direi che cesso nel momento in cui vengo proclamato consigliere regionale. E segretario lombardo regionale del Popolo della Libertà. E quella è una carica politica. Ma lei ce fa, c'ha 10 vite, vive 15 vite, 20 vite, non lo so. Una sola, io rispetto la legge, per cui adesso lascerò il Senato e naturalmente lascio la carica di sindaco. Quindi lei lascia il Senato e lascia la carica di sindaco. Quindi avendo fatto tutte queste elezioni, già bisogna andare a votare ad Arconate pure. No, non si va a votare ad Arconate, ho molto rispetto dei cittadini e della mia carica, si scioglierà, solo il sindaco che lascia e il vice sindaco porterà alle prossime elezioni naturali, a scadenza naturale, porterà il consiglio. Ma come fa a fare tutto questo? Ma guardi, non è che faccia tutto questo. Beh, faccio il sindaco, l'ho fatto per 12 anni e adesso credo aver concluso il mio percorso, per cui il vice sindaco concluderà con un anno e poi si andrà al voto e farò il consigliere regionale, come si addice a tutti coloro che vengono eletti democraticamente. Vabbè, senta, dica la verità, quando viene fuori, se dovesse venire fuori la richiesta di arresto a Berlusconi, questa cosa di Berlusconi che dice i magistrati, non sia il caso di parlarne, cioè non so perché si deve parlare in questi termini. Beh, se ne è parlato di arresto, ma non credo che ci siano ragioni. Beh, insomma, pare che Berlusconi anche a Panorama ha detto: mi voglio far fare la fine di Craxi, mi vogliono arrestare, l'ha detto anche ieri e su tutti i giornali, oggi anche sul giornale, mi vogliono arrestare. Lo si vede dall'accanimento della giustizia, insomma, quindi lo dice lui confronti. Anche però da lì a parlare dell'eventuale arresto del capo dell'opposizione saremmo veramente in un paese sudamericano, insomma, per cui io mi auguro che non se ne parli più e che non possa neanche essere sfiorata l'idea da parte di nessuno, di nessun giudice, perché non ha ucciso nessuno, non ha, insomma, io credo che non ci siano i termini e le ragioni. Ci sono stati 30 processi, dei 23 processi è stato assolto e solamente 4 sono stati prescritti dei 23. Aprono tutti i giorni un processo, adesso c'è la questione di Napoli, cioè se fa scouting il buon Bersani è un'opera meritoria che fa la sinistra per poter dare un governo al paese. Se Berlusconi dà un contributo a un altro parlamentare, il quale De Gregorio ha sempre detto di aver ricevuto il contributo per la sua associazione e dopo anni si ricorda che forse gli è andato qualcosa in più, mi dica lei se questi sono i termini per poter aprire. Però nel momento in cui una persona dice mi ha comprato, un giudice che deve fare? Persona che però al di là della credibilità ha detto per 10-20 volte in Senato non in 5 vero. Anni trascorsi non è vero, si valuterà se aveva ragione prima o se aveva ragione dopo. Che se non è questo accanimento, io ero presente quando il senatore De Gregorio, che ha concluso la sua esperienza di governo, perché oggi agli arresti domiciliari l'ha conclusa qualche giorno fa, a un certo punto ha sempre detto in ogni occasione io non sono stato comprato da nessuno, adesso improvvisamente me lo dica lei, ma è chiaro, lei dice lei ci sono gli italiani, accanimento, improvvisamente si ricorda di aver avuto invece anche una parte di soldi non legittimi e questa sicuramente faccio fatica a credere a uno che fino a ieri ha sostenuto che tutto è regolare, improvvisamente secondo lei forse ci sono degli interessi personali in base. Interessi personali, vabbè, ma questo lo valuterà la magistratura, capisce, ma come si può parlare in questi termini? In ogni caso, onorevole Civati, questo in tutto il nuovo che avanza, questo invece è un tema che torna da 20 anni. Lei da giovane politico che insomma è un po' non è della vecchia leva, come affronta questa idea del parlare sempre dei guai giudiziari di Berlusconi, Civati? Ho l'impressione che si debba fare con quella razionalità che è mancata spesso in questi 20 anni. Tutto qui, le ripeto, se arriveranno richieste che riguardano il senatore Berlusconi, le affronteremo con la serietà che completa il Parlamento e che completa qualsiasi cittadino italiano. È chiaro che c'è un dato politico molto delicato, perché Berlusconi rappresenta un terzo degli italiani, non ho nessun problema a riconoscerlo, questo rende più difficile il confronto, però rende anche più responsabili tutti i soggetti che devono affrontarlo, così la penso. Intanto io voglio salutare, ci ha raggiunto Antonio Ingroia, buongiorno dottor Ingroia. Buongiorno a voi. Ma è responsabile di Rivoluzione Civile, insomma la ringrazio perché torna anche a parlare dopo un po' di tempo, dopo le elezioni che non sono andate benissimo. Dottor Ingroia, senta, dopo le elezioni tra l'altro ci sono dei problemi che sono affiorati. Ultimo, 2 giorni fa ho letto un procedimento disciplinare aperto, la cui richiesta è da parte del ministro Severino per sue dichiarazioni dopo un'intervista nella quale si sono visti delle possibilità di immagini lesive nei confronti della magistratura, addirittura. Lei come ha preso questa vicenda? Beh, un po', diciamo, piuttosto stupefatto. Mi sono ricordato di un'intervista di un anno fa dove non avevo, a mio parere, leso nessuno, avevo espresso una mia opinione, anche riconosco aspramente critica nei confronti di una sentenza, ma ritengo del tutto rientrante nel legittimo esercizio del diritto di quiescenza. Ma che succede? Che vuol dire un procedimento disciplinare? Cosa potrebbe comportare? Nel caso dovesse procedimento disciplinare, qualora dovesse andare avanti, qualora si dovesse procedere a un avvio vero e proprio procedimento disciplinare, si va davanti a una sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, che poi, se ritiene il magistrato passibile di sanzione, può essere sanzionato con vari provvedimenti. Vogliamo spiegarlo, perché era un'intervista nei confronti del giudice, il presidente Aldo Grassi, cioè della Corte, che ha respinto la condanna in appello a Marcello Dell'Utri. Lei in pratica disse: io, la mia formazione giuridica è quella di Falcone e Borsellino, quella del presidente Grassi è totalmente lontana dalla mia. Insomma, è un'insinuazione, come dire, lei sta con Falcone e Borsellino mentre lui non si sa. No, vabbè, ma era una valutazione, attenzione, ovviamente non davo dell'oppositore di Falcone e Borsellino, io facevo un ragionamento sulla cultura della prova, nel senso che è noto che in magistratura ci sono modi diversi di valutare il materiale probatorio. Falcone e Borsellino, il culo antimafia, è stato portatore di un certo modo di interpretare la prova, in modo, diciamo, complessivo, valutando i collegamenti dei vari elementi probatori. C'è un'altra, diciamo, chiamiamola così, scuola di pensiero che faceva capo al presidente Carnevale, di cui il giudice Grassi è stato a lungo il giudice Alatere, che invece era per una scomposizione analitica degli elementi di prova. A questo mi riferivo e nulla più. Nulla più. Senta, le devo fare questa domanda, poi ci sono le informazioni sul traffico, ne entriamo tra un minuto. Perché lei aveva detto, allora ci vuole sciogliere questo dubbio, lei aveva posto anche una data, credo l'11 marzo, cioè sul fatto torno a fare il magistrato, rimango in politica. È vero che la situazione è ancora un po' fumosa a livello politico, e quindi lei magari può stare un attimo a capire che succede. No, ma non dipende mica da me. L'11 marzo è la data in cui ci sarebbe stata la proclamazione degli eletti, e quindi formalmente scade l'aspettativa dei motivi elettorali. Dopodiché io sono in attesa che il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, mi consenta di rientrare in ruolo e che mi offra dei posti da magistrato per un eventuale rientro in ruolo. In questo momento l'aspettativa è finita. Il CSM dovrebbe... Sono fuori ruolo, no, sono ancora fuori ruolo, non è finita l'aspettativa. Finita l'aspettativa per motivi elettorali. Sono fuori ruolo in attesa di essere rimesso in ruolo. Cioè il CSM potrebbe oggi stesso dire: dottor Ingroia, lei deve rientrare in ruolo in questa procura. Sì, procura non potrei comunque rientrare, perché dopo un'aspettativa del motivo elettorale si torna soltanto a ruoli di giudice. Dovrebbe mettermi a disposizione delle sedi dove E anche lei dovrebbe a quel punto decidere, immagino. E, vabbè, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi parliamo anche di questioni politiche, però volevo approfondire un attimo a capire qual è la sua sensazione di dovesse decidere su che cosa. Glielo richiedo tra un attimo. Eccoci alle 8:48 minuti, siamo fino alla fine della trasmissione, ancora 5-6 minuti con Antonio Ingroia, leader di Rivoluzione Civile. Senta, dottor Ingroia, allora ci ha spiegato che il CSM potrebbe dire: mettiamo a disposizione questi ruoli per rientrare. Ma lei è propenso a fare che cosa? A tornare oppure a aspettare di capire? Ma propenso, diciamo, deciderò nel momento in cui dovrò decidere, mi pare. Prematuro prendere una decisione nel momento. È prematuro prendere la decisione. Dal punto di vista politico, invece, come la vede? Sinceramente, lei spera che ci sia un governo? Oppure, insomma, visto che voi non siete entrati in Parlamento, spera che Bersani non ce la faccia, che si debba andare a rivotare, così avete un'altra possibilità? Io, insomma, bisogna non guardare agli interessi, diciamo, contingenti e spiccioli della propria parte politica. No, io mi auguro che si faccia un governo, però io, come sempre, come si è sempre detto, ho detto anche in campagna elettorale, la stabilità non è un valore assoluto, bisogna vedere governare per fare cosa e con chi. Allora, che governo può venire fuori da questa tripolarizzazione del quadro politico rispetto a tre forze, ciascuna molto distante dall'altra? Questa è la domanda. Ci sono certamente delle misure urgentissime, a cominciare appunto di fronte al rischio di un ritorno alle urne, soprattutto una legge elettorale. Mi auguro intanto che le forze politiche riescano intanto a mettersi d'accordo su riforma elettorale e un paio di misure, interventi urgenti. Intanto che si mettano d'accordo a fare un governo, perché questo non è neanche sicuro. A questo proposito, secondo lei, prima Pippo Civati, qui ai nostri microfoni del Partito Democratico, ha detto dovremmo avere la forza anche di andare oltre Bersani, magari parlare con i grillini, col Movimento 5 Stelle, dite vediamo se c'è un nome che piace anche a voi, discutiamo, che non sia Bersani. Secondo lei potrebbe essere una soluzione? Potrebbe essere una soluzione, certamente, però non è soltanto ovviamente il nome che risolve la questione. La questione sono anche i contenuti. Negli 8 punti di Bersani, secondo me, c'è del buono, anche se trovo un po' paradossale che ci siano punti programmatici che non esistevano nel programma di Bersani, erano nel programma nostro, che invece in Parlamento non ci siamo, ma questo fa parte, diciamo, dei paradossi della politica. Però credo che ci sia una strada molto stretta che è giusto che si percorra sino in fondo prima di tornare alle urne. Ha visto che è stato nominato Piero Grasso, allora Presidente del Senato, so che lei ha detto vabbè, ma adesso è un ruolo istituzionale, per carità, in passato c'è stata qualche, come dire, polemica al calor bianco tra voi due, quando è stato nominato, che ha provato? Ah, guardi, non contano, diciamo, i sentimenti quando si tratta di politica. Io credo che il dato politico sia un dato invece soprattutto importante e significativo. Come suol dirsi, il passato è passato e ciascuno ha le proprie idee, ma quello che conta è che il Partito Democratico in particolare ha fatto una scelta coraggiosa e di apertura verso due figure di non professionisti della politica, che credo che sia un segnale di rinnovamento importante che si muove nella direzione. Ma come? Ma Grasso era quello che voleva dare anche per alcune cose un premio a Berlusconi, questa cosa non... Sì, si sa che io non risparmiai critiche. E infatti mi ha colpito il fatto che Berlusconi sia stato fra i primi a scattare in piedi e applaudire una volta giunta la conferma dell'elezione di Piero Grasso. Però, ripeto, quello che conta è il significato politico dell'elezione. A questo proposito, che ne pensa lei di Berlusconi che dice se la sinistra prende anche il Quirinale combattiamo in piazza? Beh, ovviamente è un modo, combattiamo in piazza, politico, eh? No, sono molto preoccupato. C'è un punto di rifiuto comunque delle regole democratiche in alcune posizioni estremistiche di Berlusconi, che è il vero estremista del quadro politico di oggi. Che non possono che preoccupare, così come preoccupa la manifestazione di sabato contro la magistratura. C'è un rifiuto delle regole dello Stato di diritto che credo sia stata la principale anomalia del ventennio berlusconiano e che speriamo di poter definitivamente togliere di mezzo in futuro. E come? In che senso togliere di mezzo? Nel senso che gli italiani, mi auguro che alle prossime, forse non tanto lontane, consultazioni elettorali, si liberino di questo modo di fare politica, non accettare le sconfitte, non accettare le sentenze, Insomma, si liberano di Berlusconi. Questo e del berlusconismo. E del berlusconismo. Dottor Ingroia, io la ringrazio, la saluto. Dica la verità, quando le ha fatto il gesto delle manette Berlusconi, perché adesso si parla della possibilità della richiesta d'arresto, ma lei non sta in Parlamento. Lei la voterebbe, no? Manco a leggere le carte, no? La voterebbe subito. No, per carità. Non sono così giustizialista come... Vabbè. La ringrazio intanto, buona giornata. Con lei concludiamo. Antonio Ingroia, leader di Rivoluzione Civile. Potete riascoltare tutto sul sito di Radio 24, www.radio24.it. Alino Milan invece è il mio profilo Twitter, se volete iscrivermi anche per insultarmi. Eccomi qua. Intanto ci troviamo domattina alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. QOA Executive Master in Banking. Informazioni su quoafinance.it. Vi ha presentato 24 mattino.